Al trucco pesante, la bocca importante, somiglia a una dea. Al trucco pesante, la bocca importante, somiglia a una dea. Mi dico sta attento, ci parli un momento, nessuna follia. Anche già invitante, somiglia a un disegno di Toulouse-Lautrec. Si appoggia al mio fianco, si lascia alle spalle un'idea di Chanel. Se non l'emozione di un...